messa, diciamo, di carattere generale rispetto alla Corsica. Se è vero che queste elezioni sono state, non ricordo quale quotidiano francese ha intitolato la gifle, lo schiaffo, lo schiaffone, diciamo, con la foto di Hollande, questo voto. In Corsica questo schiaffo c'è stato, nel senso che in realtà i candidati, espressione di un movimento nazionalista, di una coalizione nazionalista che si chiama Femmes a Corsica, si sono scontrati con quelle che sono le tradizionali clientele. La Corsica ha una specie di come dire, abitudine storica ormai che data sicuramente dall'ultimo mezzo secolo, ma se si va ancora più indietro parliamo di storie che affondano le loro radici nella stessa origine, in qualche modo amministrativa dell'isola, che vedono a nord e a sud sostanzialmente due casate. Quelli del sud, i cosiddetti marchesi di Roccasecca, sono addirittura dei veri nobili. Delle casate che prima avevano il potere sulla terra e poi hanno cominciato ad avere il potere sulla politica e sull'economia. Per cui sostanzialmente queste due casate, una progressista e una legata al partito radicale e ai radicali di sinistra, legati ai socialisti a nord, e un'altra invece legata all'UMP al sud, hanno sempre deciso, da che si vota, potremmo dire, in Corsica, hanno sempre deciso delle elezioni. Quindi il risultato corso interessante è che questa lista, diciamo, di unione, poi vedremo fino a che punto, di unione nazionale dei movimenti nazionalisti corsi, si è battuta in realtà a nord contro gli alleati di Hollande e a sud contro i nemici di Hollande, quindi a nord contro il centro-sinistra e a sud dell'isola contro il centro-destra. Tant'è che c'è stata l'elezione di Gilles Simeoni, così si chiama il nuovo sindaco di Bastia al nord, la capitale, Bastia la capitale economica produttiva dell'isola, mentre ad Ajaccio e a Portovecchio nel sud dell'isola i nazionalisti sono andati piuttosto bene, nel senso, in particolare a Portovecchio il candidato nazionalista è arrivato al ballottaggio, ma dall'altra parte appunto non c'era un progressista come è accaduto a Bastia, ma c'era un esponente dell'UMP. Questo per dire che appunto la Corsica offre già un panorama che è un po' differente da quello francese, nel senso che è un panorama di come dire, di casate, di potentati che occupano la politica, a cui poi si sovrappongono le etichette ideologiche, ma insomma sono soprattutto un'occupazione del potere. Questa è stata la situazione. Il progetto, diciamo, che ha vinto a Bastia, per venire invece al campo nazionalista, è in realtà un progetto che non ha fatto l'unanimità e che ha, come dire, proposto un'ipotesi di lavoro intorno al campo nazionalista. Prima di raccontarla, forse però va detto brevemente chi è il nuovo sindaco di Bastia, chi è Gilles Simeoni. Ha 44 anni, è un avvocato, è stato, ancora oggi, l'avvocato di Ivan Colonna, il nazionalista condannato per l'omicidio del prefetto Claude Erignac, che fu ucciso nell'isola nel 1998, ed è soprattutto il figlio di Edmond Simeoni, che è, diciamo, per chi mastica di Corsica, ha una sorta di padre, di un nome tutelare del nazionalismo corso. Edmond Simeoni era ad Aleria, quel famoso 1975, quando questa tenuta agricola fu occupata dai nazionalisti. Era un simbolo dell'occupazione della terra, nel senso che da sempre i corsi chiedono che la proprietà della terra in Corsica, chiedevano almeno all'epoca, fosse limitata ai soli corsi, e soprattutto che non ci fossero stranieri, come loro considerano anche i francesi, che andassero in Corsica e comprassero appezzamenti grandi per farci appunto aziende agricole piuttosto che villaggi turistici, eccetera, eccetera. Durante questa protesta, che era una protesta molto muscolare, fu occupata questa tenuta agricola da uomini armati, vi fu un assedio da parte delle forze dell'ordine, rimasero uccisi due gendarmi e molti degli occupanti, compreso Edmond Simeoni, quindi il padre dell'attuale sindaco di Bastia, furono condannati a delle pesanti pene detentive. Quello che, diciamo, la storia ricorda è che da Aleria in poi, quindi dal 75 in poi, le proteste dei gruppi sparsi del nazionalismo corso trovarono una sorta di via unitaria che portò alla nascita del Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica, quindi del primo gruppo clandestino anche sull'isola, attivo in qualche modo ancora oggi, e diciamo è quella comunque la data indicativa, la data storica da cui si fa partire poi la definizione dell'intero movimento nazionale. Quindi anche Simeoni è un figlio d'arte, non è un casato, non è una dinastia politica, diciamo, come quelle che occupano invece i collegi elettorali del sud e del nord dell'isola, ma comunque, insomma, la Corsica è una piccola isola e quindi insomma, in qualche modo è facile che ci siano delle tradizioni che passano di padre a figlio. Nel corso degli anni Edmond Simeoni ha rappresentato, quindi il padre di Cil Simeoni, eletto sindaco a Bastia, ha rappresentato però anche un'ipotesi di trasformazione, diciamo, dell'idea nazionale corsa. Da sempre, diciamo, si è posto in maniera fortemente dialettica rispetto ai movimenti clandestini e ha progressivamente assunto una posizione di primato della politica rispetto in qualche modo alla voce delle armi, chiamiamola così. Tra l'altro il movimento corso, dopo una stagione unitaria, e qualcuno ricorderà le cosiddette notti blu, cioè le notti di attentati soprattutto contro i villaggi turistici, le proprietà dei francesi, oltre ovviamente alle istituzioni militari, caserme, commissariati e quant'altro, proprio per sottolineare la natura occupante della presenza francese in Corsica, sia sul piano degli interessi economici che di quelli militari. Insomma, i nazionalisti si sono anche infilati in una guerra fratricida che negli anni 90 ha trasformato per alcune stagioni, insomma per alcuni anni, l'isola in una specie di piccola Beirut, nel senso che la capacità militare che il Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica aveva costruito nel corso degli anni, c'è chi dice anche con qualche rapporto un po' complicato con la malavita locale, insomma la Corsica, proprio questa struttura clanica, clanistica della società, vuole che vi sia una sorta di mafia corsa, sul modello di quelle che conosciamo, insomma, molto bene nel nostro paese, soprattutto in Sicilia. Insomma, i nazionalisti qualche rapporto con altro tipo di attività illegali che non fossero quelle politiche lo hanno avuto, e avevano messo da parte un piccolo arsenale. Quando hanno deciso che non erano più d'accordo e hanno cominciato a farsi la guerra, in realtà una guerra le cui motivazioni politiche potrebbero essere ridotte a radicali contro moderati, se vogliamo, indipendentisti contro regionalisti, ma in realtà era molto una guerra di capi, una guerra di leadership, ci sono stati attentati, omicidi, addirittura esplosioni con le autobomba. Calcolate che Bastia è una città di meno di 30.000 abitanti, pensate alle autobombe in una piccola città spalmata lungo la costa, insomma, significa effettivamente immaginare come fossero in una qualche città delle vacanze italiana, insomma, quindi qualcosa di impressionante. E questa ipotesi di guerra interna rimane sotto traccia, malgrado proprio Simeoni abbia da tempo, l'ultima volta che l'ha fatto è accaduto a Corte alle giornate internazionali che riuniscono tutti gli anni in questa località del centro dell'isola, dell'interno dell'isola, che è Corte, le varie componenti della famiglia nazionalista. Simeoni abbia parlato di unità, diciamo, del movimento, proponendo una soluzione politica per quanto riguarda la vicenda della lotta armata, cioè sostanzialmente una fine della stagione clandestina e una soluzione politica per i detenuti che ancora ci sono, soprattutto ovviamente nelle carceri francesi, e che fanno riferimento al movimento corso come eredità di tutti questi anni, diciamo, di attività clandestina. E contemporaneamente un'unità di alternativa nazionalista, cioè mettere al primo posto alcune rivendicazioni fondamentali e unire dietro queste rivendicazioni l'intera famiglia nazionalista. Questo progetto è stato fatto proprio in qualche modo da suo figlio, da Gilles Simeoni, che lo ha condotto negli ultimi 5-6 anni all'interno del Consiglio Comunale di Bastia, con l'idea di provare, diciamo, sul piano elettorale quello che non è riuscito in altre forme al Movimento Nazionale. Dobbiamo ricordare che alcuni anni fa aveva fatto molto scalpore l'elezione al Consiglio regionale di Jean-Guy Talamoni, all'epoca esponente di alcun colta nazionalista, che oggi guida il gruppo di Corsica Libera, che, diciamo, secondo la vulgata giornalistica è la formazione politica più Corsica Libera, più vicina ancora al Fronte di Liberazione Nazionale e che sicuramente comunque è più vicina agli umori di coloro che non hanno rinunciato fino in fondo, diciamo, alla clandestinità o non hanno scelto la via della pacificazione. Diciamo che in Corsica ancora non si è arrivati a ciò che è accaduto in parte almeno in Irlanda o in Scalerria, cioè una scelta da parte delle organizzazioni combattenti di deporre le armi e di avviare un pieno processo in cui la politica abbia la prima parola, insomma, ecco, questo è un po' lo scenario. Senti, e quindi sì. No, dicevo, in questo scenario questa candidatura, che poi si è tradotta nell'elezione a sindaco, ha un colore, anche un colore politico, diciamo, oltre al fatto di essere una candidatura indipendentista o nazionalista, autonomista, chiamiamola come vogliamo, oppure no, insomma, che lettura possiamo dare, visto che citavi appunto altri casi di movimenti similari che da un punto di vista politico però fanno una scelta ben precisa. È lo stesso in Corsica oppure ci troviamo di fronte a una realtà diversa? No, per quanto dicevo prima, in realtà la scelta in questo caso è quella della ricercare per questa via una sorta di unità del movimento nazionale, nel senso che diciamo gli oppositori principali alle liste nazionaliste erano differenti a seconda della collocazione geografica dell'isola, per cui nel nord, a Bastia, il candidato di Femmo a Corsica, in realtà la lista si chiamava Insieme per Bastia, Gilles Simeoni, si è misurato con un esponente del partito dei radicali di sinistra, tradizionali alleati del Partito Socialista, la cui famiglia governa la città del nord dell'isola da qualcosa come mezzo secolo, e per diciamo al ballottaggio ha avuto dalla sua anche i voti del candidato dell'UMP, quindi del centrodestra, e degli indipendenti di sinistra, compresi, diciamo, gli esponenti del Front de Gauche, quindi una coalizione assolutamente inedita per battere, diciamo, questo padre padrone del nord. A Porto Vecchio invece il sindaco uscente era l'UMP. Per andare al ballottaggio, che poi questo sindaco ha effettivamente vinto, il candidato del Movimento Nazionale, di questa unione, diciamo, del Movimento Nazionale, era invece alleato della sinistra. Quindi in realtà non si può definire in modo esplicito un progetto, diciamo, che abbia le linee, diciamo, della visione ideologica, ma questo non tanto perché non ci sia, cioè stiamo parlando di un movimento progressista ovviamente, ma perché la situazione politica isolana è assolutamente particolare, insomma, no? Nel senso che ci sono delle roccaforti tali di potere che per scalzare, diciamo, questi clan, i nazionalisti difficilmente potrebbero fare riferimento solo sulle loro forze. E poi c'è ovviamente anche un altro problema, e cioè il fatto che nelle forze progressiste, ammesso che ce ne siano sul piano elettorale francese, alcune tematiche come quelle della questione nazionale sono assolutamente difficili da porre. Infatti, diciamo, questo spiega il secondo elemento importante di questo voto, nel senso che dopo un primo turno in cui le diverse anime del movimento nazionale corso sono andate da sole, scusate il gioco di parole, e quindi assieme a questa lista di Facciamo la Corsica venera un'altra, appunto, di Corsica Libera, che faceva più riferimento, diciamo, alla linea tradizionale, diciamo oltranzista, chiamiamola così, del movimento corso. Per il ballottaggio alcuni degli alleati di Gilles Simeoni hanno chiesto che vi fosse una sorta di sottoscrizione di un appello, tra questi anche il Front de Gauche, in cui si prendeva in qualche modo le distanze dalla clandestinità, cioè si è detto per avere l'appoggio dei nostri partiti il candidato sindaco deve dire queste cose. Simeoni si è piegato a questo tipo di imposizione, scatenando ovviamente molte proteste sul web, cioè pieno di riferimenti da questo da parte degli esponenti di Corsica Libera, che però poi hanno comunque hanno detto vabbè, votate un po' chi volete, e in alcuni centri invece hanno detto votate i candidati unitari, eccetera eccetera. Quindi questa difficoltà è stata superata, da cui la vittoria quindi a Bastia, ma rimane questo segnale che appunto una parte della sinistra francese continua a considerare i corsi come il movimento corso come un appendice del movimento clandestino, e il candidato battuto del centro-sinistra a Bastia ha detto eccoci qua, adesso ritorna la stagione dei cappucci, per dire ritorneranno, qualcuno ricorderà insomma le conferenze stampa del Fronte di Liberazione Nazionale che colpivano molto anni fa con passamontagna, cappucci, un armamentario micidiale insomma da guerra, e ha detto con Simeoni ritorna a quella stagione lì. Quindi questa è la visione che una parte della sinistra in Francia, quella che fa riferimento comunque ai partiti francesi dalla Corsica. Quello che è, diciamo, in realtà interessante, veramente importante segnalare, è che è la prima volta che, malgrado la loro capacità in questi anni di mobilitazione, è la prima volta che i nazionalisti conquistano una città importante. Bastia è la prima città dal punto di vista economico, e i nazionalisti hanno vinto. A Porto Vecchio sono andati al ballottaggio, e ad Aiaccio hanno comunque raccolto un numero importante di voti. Questo significa che per la prima volta il movimento nazionalista corso sta provando, diciamo, a trasformare in consenso politico, su base ovviamente territoriale, quelle che sono state le lotte di questi anni. Nella lista di Simeoni a Bastia erano rappresentati movimenti sociali, associativi, realtà culturali, cioè diciamo in qualche modo il progetto di mettere insieme tutte le risorse dell'isola con alcuni temi di fondo. I temi di fondo sono quelli di uno statuto speciale dell'isola. La Francia rifiuta anche soltanto il riferimento, diciamo, alla sorta di particolarità laddove ci siano questioni appunto legate alla nazionalità di chi vi abita. Il bilinguismo, cioè l'ottenimento della lingua corsa, che la lingua corsa abbia pari diritto rispetto alla lingua francese, e uno statuto speciale, particolare per gli abitanti, cioè il fatto che chi nell'acquisto di immobili, nella costruzione immobiliare, nel possesso della terra, eccetera, eccetera, vi sia una sorta di statuto particolare per chi è nato in Corsica, cioè l'idea che l'isola non possa essere acquistata, che ne so, dalle multinazionali del turismo e quant'altro. Su queste caratteristiche di massima, che sono assolutamente basiche, diciamo, dal punto di vista dell'idea nazionale, non c'è alcun riferimento esplicito all'indipendenza. Poi nella notte di Bastia, mentre si festeggiava con le bandiere con la testa di Moro, portavano a spalle il neo sindaco Simeoni, in realtà le cronache della stampa raccontano di aver hanno registrato parecchi slogan in favore dell'indipendenza, però sostanzialmente quello che oggi questo progetto incarna è l'idea di un movimento nazionalista moderno, maturo, che prova a misurarsi con la realtà politica dell'isola con alcune proposte di massima. Ovviamente rimane questa questione del rapporto con il movimento clandestino e rimane il fatto che su questa questione quella che potrebbe essere un'unità complessiva fatica ancora a trovarsi, ma credo che proprio, diciamo, la dialettica tra chi ha vinto queste elezioni e quello che potrà fare per l'isola e per lo stesso movimento nazionalista, e dall'altra parte, diciamo, la fotografia della realtà che vede oggi abbastanza come qualcosa di molto lontano e molto difficile dalla vita dei corsi, la realtà dell'esistenza ancora di una struttura clandestina, probabilmente apriranno una dialettica nuova, sicuramente una dialettica che in Corsica non c'è mai stata, cioè quella di un forte radicamento anche politico a partire dai centri maggiori, che si misuri invece con la scelta, diciamo, avanguardistica delle armi. È una scommessa che si apre e che però, diciamo, nell'anno del referendum scozzese, del referendum catalano, cioè in questo 2014, sicuramente ci dice qualcosa del clima politico dell'isola, e che forse, insomma, in Francia non c'è stata solo l'affermazione di Marine Le Pen e Front National, ma ci sono stati anche altri. Questo è uno degli altri segnali sicuramente interessanti, insomma, curiosi. Certo, non è come dire una rivoluzione, una trasformazione totale della vicenda corsa, ma è già qualcosa di mai visto, insomma, in un'isola in cui lo status quo è lo stesso da decenni e decenni, insomma, per non dire dal 1945. Sì, questa è la situazione. Certo, diciamo, l'elezione di Valls a primo ministro non crediamo che faciliterà le relazioni fra Corsica e Parigi, però il fatto che comunque si sia riusciti in qualche modo a trovare un minimo di accordo fra le varie forze dell'isola è sicuramente un dato da sottolineare con favore. Va bene, Guido, noi ti ringraziamo. Diciamo anche che per quanto riguarda appunto la questione Front National e elezioni, se ne tornerà a riparlare giovedì, immaginiamo. Sì, penso proprio di sì, che torneremo ancora sull'argomento. Va benissimo, ti ringraziamo, a risentirci a giovedì per ancora vicende francesi, e poi con noi su queste sicuramente nel prossimo futuro. Come sempre un ringraziamento e un abbraccio, a presto. Grazie a te, buongiorno, buona giornata a tutti.